already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. وينفق على هذه الحرب وجيشها أكثر مما تنفقه الدنيا على جيوشها. Terrorismo, proprio mentre la Fox sta mandando in onda in questo momento il Wanted relativo a alcuni giovani americani sospettati di connivenza con il terrorismo internazionale, anche Barack Obama poche ore fa ha ricevuto il suo battesimo del fuoco. È arrivato un messaggio del tenore di quello che ascoltate in sottofondo a opera di Al-Zawahiri, che in un certo senso gli ha dato il benvenuto, no, al tavolo di quelli che contano. Adesso Obama, presidente eletto, esiste a tutti gli effetti anche sullo scenario della War on Terror. Non è stato esattamente un benvenuto, anzi, in un certo senso è stata una retrocessione, se almeno da certi punti di osservazione il valore aggiunto, la particolarità del 44esimo presidente degli Stati Uniti che si insedierà il 20 gennaio è quella di essere di pelle scura. Benissimo, Al-Zawahiri gli ha detto che come afroamericano non, Barack Obama non gli piace per niente, che i veri afroamericani, quelli degni di onore, questa è stata l'espressione usata dal numero due di Al-Qaeda, sono quelli come Malcolm X. Tra l'altro nel filmato, così in questi montaggi che un giorno ci piacerebbe sapere poi se cosa fanno questi di Al-Qaeda, pescano su YouTube le loro immagini, dove le scelgono, come le assortiscono. Comunque appare per l'appunto Malcolm X che prega e poi appare Barack Obama insieme ai leader ebrei. Ha aggiunto tra l'altro Al-Zawahiri nel suo comunicato che il piano di Obama di sottrarre truppe ad altri teatri di guerra per dirottarle in Afghanistan è destinato al fallimento perché gli afghani resisteranno. E questo è in un certo senso il primo commento, no? La prima uscita pubblica da parte di Al-Qaeda ad opera del medico egiziano Ayman Al-Zawahiri nei confronti di Barack Obama, uomo definito dall'organizzazione che capeggia come disonorevole. Fa tutto in anticipo Obama, ancora non è presidente, ma insomma già ha ricevuto fra molti attestati, oltre a darne molti, tra poco ne parliamo, già anche quello delle organizzazioni terroristiche. La War on Terror è una eredità pesante pronta a cadere sulle sue spalle. Io vi ricordo il nostro numero per inviare messaggi SMS, 349-238-6666, perché oggi nella seconda parte del programma parliamo di un tema che poi così ci ha anche un po' inorgoglito, perché ci siamo sentiti a cavallo della notizia, proprio perché ci siamo accorti, al di là del fatto che l'avevamo già programmato precedentemente, che oggi anche ad esempio Repubblica apre con un intervento di Renato Dulbecco intitolato "Noi costretti a regalare il cervello all'estero, è il momento di cambiare", insomma alla fuga dei cervelli, alla fuga dei talenti. Ne parleremo con un collegamento con la California, con la presenza in studio di Pietro Paganini, un amico del nostro programma, nonché uno specialista, un operatore sul tema in questione, che tra l'altro annuncerà anche una iniziativa a riguardo. Ma ci piacerebbe avere qualche vostro intervento, vi vogliamo porre una domanda, se come studenti, come ricercatori, come operatori, anche come semplici imprenditori, perché questo è un risvolto a cui vogliamo dedicare attenzione. Non ci sono solo le fughe di cervelli, le fughe di ricercatori, le fughe di studiosi, perché questa è una realtà di fatto, però c'è anche, no, una leggera tinta vittimistica in tutto ciò. Ci sono anche fughe di imprese, piccole, grandi, nascenti o antiche, in cerca di nuovi sbocchi. Come capita tutto ciò e se ne siete protagonisti, che cosa potete dirci a riguardo? Usate il 349-238-6666 per mandare un SMS o naturalmente la nostra mail, che è jeffersonming@radio24.it. invece voglio darvi un'altra notizia che riguarda la nascente amministrazione Obama, perché è una notizia importante, forse lo avrete già sentito, ma di fatto, anche se non c'è proprio ancora l'ufficialità, ma sarebbe stato scelto il nuovo ministro della giustizia, quello che prende il posto della triade, no, che si è rapidamente succeduta negli ultimi 3 anni al servizio dell'amministrazione Bush. Vi ricordo Ashcroft prima, Gonzales poi per un anno poco più, e poi Mukasey, e alla sua stessa poltrona aveva seduto lungamente durante l'amministrazione di Bill Clinton invece Janet Reno. Tocca a Eric Holder, e la notizia side, no, laterale, è che anche in questo caso si tratta di un afroamericano, quindi anche in questo caso abbiamo una prima assoluta, è il primo afroamericano a sedere sulla poltrona di ministro della giustizia. Non è un nome nuovo nell'entourage di Obama, tutt'altro, perché è colui, l'avvocato che insieme a Caroline Kennedy, all'ultima rampolla Kennedy, ha guidato il team di vetting, no, di ricerca del giusto vicepresidente per Obama, il team che evidentemente poi deve aver sottoposto a Obama il nome di Joe Biden, su cui si è orientato alla fine per la formazione del ticket. Peraltro Holder non è neanche un novellino per quello che riguarda quel ministero, ha 57 anni, è laureato alla Columbia, ha lavorato appunto nell'amministrazione Clinton come vice ministro della giustizia, quindi ha semplicemente aspettato i mandati Bush per poi fare il salto di qualità e diventare capo dell'ufficio di Attorney General, come si dice negli Stati Uniti. Holder avrebbe accettato su condizione, e la nomina sarà ufficializzata solo quando saranno completate le verifiche, le solite verifiche sul passato dell'avvocato, la stessa questione di cui ieri vi parlavamo in relazione all'offerta del segretariato di Stato a Hillary Clinton e alle possibili controindicazioni, no, la incompatibilità che da quelle parti viene presa molto sul serio con le attività della fondazione Clinton diretta dall'ex presidente Bill, che proprio in relazione a quelle funzioni di cui il segretario di Stato si occupa, ovvero rapporti con, e soprattutto rapporti con i paesi esteri, avrebbe un sacco di attività, soprattutto di finanziamenti ricevuti, che potrebbero rappresentare un problema se sua moglie diventasse segretaria di Stato. Non a caso sulla nomina di Hillary c'è molta amaretta sulla stampa americana, se ne discute parecchio, c'è chi sostiene che alla fine Hillary potrebbe non accettare, che potrebbe scegliere un posizionamento diverso, potrebbe decidere di restare esterna all'amministrazione Bush. È una situazione molto delicata, molto sofisticata e anche molto particolare, e in certi casi invece attaccata proprio a colpi di siluro da tanti editorialisti che non vedono di buon occhio comunque alla fine il ritorno del cognome Clinton, no? La famosa alternanza Bush-Clinton, come adesso arriva Obama ma poi tornano i Clinton. Qualcuno non è molto contento della questione, si tratta di aspettare pochi giorni per sapere come finisce. Intanto il puzzle della amministrazione nascente di Obama perlomeno si arricchisce di questo nome, perché su questo non dovrebbero esserci davvero smentite. Nuovo ministro della giustizia, 57 anni, si chiama Eric Holder. Babe, I love you, love you. Yo, he's babe, lying. I swear, held you when you were sick. Even the whole time I think to myself, this isn't fair. What is this I see? No. realize, look, I found her red coat and your bitch caught out there. Truck to flames and watch it blow up, blow up. Tell me, how you gonna see it now? Beh, molto molto spiritoso questo ascoltatore, purtroppo non si firma, ma che in relazione al benvenuto che Al-Qaeda ha dedicato a Barack Obama scrive: dopo le dichiarazioni del vice di Bin Laden, mi piacerebbe sapere che caratteristiche dovrebbe avere il presidente americano per essere accolto senza una maledizione micidiale. Forse non essere americano, può essere. Perché comunque insomma, di fatto non gli è andato bene neanche Barack Obama, che fa, se ne va a spasso per Israele, ma che scherziamo. Poi Dan dice: ma a questo punto perché non approvano una legge per anticipare la venuta di Obama? Si sta perdendo tempo. Sì, ma credo che per approvare una legge per a parte il fatto che Bush forse non sarebbe d'accordo, ci vuole godere fino all'ultimo, c'ha l'affitto pagato. non credo che potrebbe. E poi vi voglio ripetere il numero, già sono arrivati dei messaggi. Allora, 349-238-6666, dalla mezza parliamo di fuga dei cervelli e vogliamo coinvolgervi insieme agli ospiti che avremo con noi nel discorso, sia naturalmente se in prima persona o comunque per conoscenza o per sensibilità al problema volete dire la vostra. La domanda che poniamo è: perché vi viene voglia di lasciare l'Italia? È solo questione di stipendi, è solo questione di prospettive o ci sono anche altre modalità? E vorremmo coinvolgere nel discorso, come qualcuno ci ha già accennato via SMS, anche chi fugge portandosi dietro non soltanto il proprio talento, la propria capacità, ma anche la propria produttività di impresa, no? Magari un'impresa giovane o magari un'impresa più adulta, no? Che però sente che non è più il suo tempo qui dalle parti nostre. Prima pagina. E visto che parliamo di fuga, andiamo in un posto che spesso è simbolo di fuga, di evasione peraltro di tutt'altro genere, cioè Cuba, perché in questi giorni a Cuba, a La Habana, si trova Hu Jintao, il presidente cinese, sta completando il suo lunghissimo giro tra Nord e Centro Sud America, ha fatto visite importanti, cominciate la settimana scorsa con il G20 di Washington, questo importante riconoscimento anche per la Cina che è stata invitata finalmente al tavolo dei grandi, di quelli che contano. D'altronde la Cina non può essere esclusa in un discorso economico così delicato come quello attuale. Hu Jintao è da due giorni a Cuba, ha fatto cose importanti, ha firmato importanti trattati, però vedo che le agenzie, i corrispondenti si concentrano soprattutto su alcuni elementi, se vogliamo, folcloristici, perché segnalano una foto che è stata scattata tra Hu Jintao e Fidel Castro, forse perché Castro ormai da un paio d'anni appare pochissimo in pubblico, quindi sono anche occasioni per capire come l'82enne leader massimo sta, insomma, le sue condizioni di salute, certo, non credo siano saldissime, certo. Comunque è apparso energico, secondo le parole usate da Hu Jintao, vediamo se poi sono parole più che altro formali, comunque hanno fatto energico. Questa foto insieme, e poi c'era anche Raul Castro, che di fatto è in questo momento il reggente di Cuba, e in onore di Hu Jintao ha cantato una canzone in cinese che dice di aver imparato nel lontanissimo 1955. Beh, quando partecipò ad una ad un congresso della gioventù mondiale, è una canzone dedicata a Mao Zedong, immarcescibile, che resta ancora vivo. Ma Fidel ha cantato? No, ha cantato Raul, all'epoca era giovane ed era stato spedito in Cina per studiare, così l'amico, il comunista. Andiamo a caccia, vogliamo sentire Raul che canta in cinese. Troveremo. No, io volevo riprendere un attimo il discorso fatto poco fa sull'anatema lanciato da Al-Qaeda nei confronti di Obama. Vi ho detto che la parola usata, insomma l'insulto, diciamo così, usato, l'etichetta attribuita a Obama è quella di disonorevole, punto a capo. Passo ora a leggere invece una notizia che riguarda il Vaticano e l'accoglienza che il Vaticano ha riservato all'elezione di Barack Obama a presidente degli Stati Uniti. Ebbene, qui parla invece un cardinale della Chiesa di Roma, si chiama James Francis Stafford, è il capo del Tribunale Penitenziario della Santa Sede e avrebbe dato il proprio benvenuto alla elezione di Barack Obama con le seguenti parole: è una persona aggressiva, indisciplinata e apocalittica. Complimenti. Apocalittica, quindi di là arriva un disonorevole, ma di qua arriva un apocalittico come aggettivazione, paragonando il futuro che attende gli americani, questo Stafford, al calvario di Gesù nell'orto di Getsemani. Insomma, un vero e proprio castigo, a dir poco un castigo. Naturalmente al centro delle critiche che riguardano Barack Obama c'è la questione dell'aborto, su cui siamo andati, ma su cui prometto che torneremo presto, perché sembra veramente una questione all'origine di una nascente guerra culturale, a dir poco culturale, a dir poco anche qualcosa di più. Obama viene definito un estremista contro la vita. L'attacco del cardinale Stafford arriva nel mezzo di un discorso pronunciato all'Università Cattolica d'America sul rispetto della vita umana e sul bisogno di rilanciare i valori del matrimonio, durante il quale appunto il cardinale avrebbe definito questa elezione un terremoto culturale. Un altro benvenuto. Diciamo che la festa sembra finita. È già finita. Gli amici se ne vanno. No, più che altro, se sono partiti con le bordate adesso, figuriamoci quando sarà insediato dal 20 gennaio che cosa nei succederà. Nei prossimi anni sperimenteremo il Getsemani, ha detto Stafford. Vabbè, torniamo in Cina e tocchiamo terreni per noi molto scivolosi, sono quelli dell'economia. Sicuramente Barisoni ne sa più di noi, ma gli rubiamo un attimo la notizia perché è importante e riguarda un po', se vogliamo, anche il futuro del mondo, per insomma questo sorpasso tra Cina e Stati Uniti, perché la Cina è oggi ufficialmente al primo posto nel mondo per possesso di straniero di titoli del tesoro americano, ha superato il Giappone, quindi ormai le connessioni tra Stati Uniti e Cina sono sempre più salde. Insomma, Pechino è arrivata alla soglia fantasmagorica di 585 miliardi di dollari in titoli di Stato americani, senza contare peraltro i 60,9 miliardi che giacciono a Hong Kong, e ha superato dal mese scorso Tokyo, che si è fermata a 573,2 miliardi. Quindi ormai sempre più Cina dentro gli Stati Uniti. È per quello quando Zakaria, il capo editorialista di Newsweek, ha intervistato un mesetto e mezzo fa, Wen Jiabao, e gli ho detto: senta, mi dica, ma vista la crisi in arrivo in America, voi che intenzioni avete? E Wen Jiabao ha detto: no, tranquilli, noi osserviamo con calma, ma sosterremo con 585 miliardi con i nostri dollari. Va bene, 349-238-6666, come vi ho annunciato, parliamo di fuga dei cervelli. Perché viene voglia di lasciare l'Italia? Date il vostro contributo, come si dice. I love another. To fulfill me, Eccoci, allora, eccoci qua. Innanzitutto benvenuto a Pietro Paganini, docente di management alla John Cabot University di Roma, presidente di Competere, un think tank italiano che elabora strategie per il libero mercato e una migliore competizione. E qui, oltre che come testimonial, è anche operatore esperto del tema che affronteremo tra poco, no? La fuga dei cervelli, ma forse anche la fuga, non so come dire, dei portafogli piccoli e grandi, comunque della volontà e della capacità di impresa, anche poi all'origine di un incontro che si svolgerà domani, giovedì, si svolgerà? Dopo domani, oggi è mercoledì, domani, sì, giovedì, sì, scusa la confusione, 17:30, un titolo mi sembra perfettamente in tenore: ignorati in Italia, geniali all'estero, perché il talento italiano fatica ad esprimersi in casa propria. E si tratta appunto alla John Cabot University, a Via della Lungara 233, Roma. Vuoi dirmi due parole in più sull'iniziativa, che cos'è? Sì, ciao a te, buonasera ciao. A tutti, buon pomeriggio. L'iniziativa parte poi da un libro recente, tra l'altro presentato anche proprio attraverso questa radio, che è quello di Costoris, Fiorella Costoris e Gianfranco Rossi, che è I leoni della Silicon Valley, storie geniali di italiani all'estero. È un libro molto semplice che racconta delle storie semplici di italiani che in Italia avevano delle semplici professioni o erano tra virgolette dei banali ricercatori, si sono trasferiti in Silicon Valley e in Silicon Valley hanno creato delle aziende che magari per alcuni non sono famosissime, ma che sono sicuramente all'avanguardia nel settore, per esempio, dell'high tech. Ne dico una su tutte che molti hanno in mente, perché è quella degli schermi, dei mouse, che è Logitech, certo. L'hanno creata due italiani, tre certo. Italiani in realtà, certo. Uno di questi è Zappacosta, e c'è certo. La storia di Zappacosta è proprio raccontata in maniera semplice. Quello che emerge dal libro è proprio che molti individui, ragazzi molto giovani, che in Italia non trovano le giuste opportunità, oppure le opportunità gli sono sbarrate per le solite logiche che oggi definiamo della casta o le logiche baronali, o semplicemente non trovano la via all'opportunità, andando all'estero. Qui si parla di Silicon Valley, ma in realtà nel convegno parleremo anche di paesi fortemente attrattivi oggi, come i paesi scandinavi, che hanno delle strutture molto simili alla Silicon Valley. In quelle regioni riescono a dare sfogo al proprio genio, al proprio talento, e a creare imprese di successo, a portare risorse e ricchezza all'economia locale, non solo a livello economico, ma anche a livello di creatività sociale e creatività culturale. Senti Pietro, prendiamo come abbiamo chiesto impegno ai nostri ascoltatori di darci degli spunti, dei pareri, dei punti di vista sul tema. Prendiamo allora come piattaforma di partenza per discutere proprio quanto ci scrivono i nostri ascoltatori, ad esempio Rosanna da Roma, e scendi tu in campo con la tua esperienza di settore. Rosanna parla molto chiaro, dice: finché c'è questa classe politica di imbecilli ignoranti è difficile che i cervelli possano trovare spazio. Adesso magari tralasciando le considerazioni con i giudizi così più tranchant, ma di fatto tutto si rifà giustamente secondo te ai palazzi del potere politico, o c'è anche una questione che affonda radici altrove? Beh, in parte devo dire Rosanna ha ragione, cioè senza entrare poi nella tematica puramente politica, che però non può non essere considerata, il nostro paese ha una presenza della classe politica e dell'interferenza politica nell'economia molto forte, e certo. Questo purtroppo nella storia, ma è testimoniato, sta facendo dei danni. Quindi... Beh, poi tanto comunque si fugge da governi, adesso per generalizzare, da governi di sinistra come da governi di destra, sì, quindi, non è che è intermittenza il fenomeno. Purtroppo io parlo su un'analisi dei fatti, quindi al di là di qualsiasi principio ideologico, ma faccio un'analisi puramente empirica e metodologica, che poi potrebbe portarmi nell'area metodologica liberale, è quella che, facendo un'analisi, emerge che dove c'è stata la politica oggi in Italia, purtroppo viene a mancare il mercato, e vengono a mancare mercato come spazio di libertà individuale, quindi quella che Schumpeter definiva, no, la capacità distruttiva, certo. Quindi quello di creare non solo economicamente ma anche dal punto di vista creativo. Oggi l'Italia non manca, senza piangersi addosso, solo nella capacità di innovazione imprenditoriale, ma anche nella capacità di innovazione culturale e sociale, cosa che altre regioni che fino a qualche decennio fa erano assolutamente arretrate e aride dal punto di vista culturale ed imprenditoriale, oggi sono floride sul discorso, se poi vogliamo andare in quella direzione, dei cosiddetti cervelli in fuga, ecco, qui la classe politica viene a mancare. Però c'è da dire che spesso è anche la classe imprenditoriale che è un po' miope. L'Italia è un paese straordinario perché ha un forte senso di imprenditorialità che deriva da una forma anche di individualismo, anarchismo, però spesso è un'imprenditorialità che rischia poco o tende a rischiare poco, e poi ci possiamo anche collegare al discorso del precariato, ma per il momento lo lascerei fuori. Invece se vogliamo rientrare, non so se ci sono altre domande a cui rispondere, però la questione poi del cervello in fuga, che io chiamerei la questione del cosiddetto brain drain o del talento, cioè infatti tu hai posto un'angolazione particolare, ma anche più ampia se possibile, del problema che ci ha interessato parecchio. Non fugge solo il talento magari su un'onda di vittimismo, di incomprensione, forse di incomunicabilità con la struttura sociale, ma fugge qualcos'altro anche, che magari non ha necessariamente questo bisogno di arrogarsi, no? Un talento eccezionale, anche chi per esempio ha voglia di fare in alcuni settori senza sentirsi straordinario per definizione. Ma guarda, il brain drain in genere pensiamo a colui che fa ricerca o colui che va a insegnare all'università. In realtà il brain drain, per quello che io ho parlato di talento, è colui che vuole esprimere qualcosa sia a livello imprenditoriale che a livello culturale, quindi non è soltanto il ricercatore o il docente universitario come immaginiamo, ma è anche l'imprenditore, il piccolo imprenditore o il grande imprenditore, il caso della fondazione di Logitech. Ma ci sono, non solo sul libro che analizzeremo domani, ci sono migliaia e decine di migliaia di storie di italiani che hanno trovato opportunità all'estero. Il brain drain, in realtà noi abbiamo due immagini, cioè un brain drain negativo dove i cervelli lasciano la propria regione di appartenenza, e un brain drain positivo che è un processo biunivoco, cioè ci sono dei cervelli che escono e dei cervelli che entrano. Questo crea uno scambio culturale, porta la diversità, quindi porta nuove idee a confronto, ed è il caso tipico della Silicon Valley. La Silicon Valley non a caso si trova in quella zona della California, perché è una zona... Cioè, mi sembra di capire, aiutami, tu tendi anche un po' in parte a sdrammatizzare, fammi dire, il problema, collocando per esempio un mercato e una potenzialità di input e di output come quella dell'Italia, poniamo, all'interno di un sistema. Noi potremmo essere non necessariamente migliori, non necessariamente la struttura nazionale, istituzionale finale, ma una struttura intermedia da cui, mi sembra di capire, è anche un po' inevitabile che almeno un certo filone di intelligenze o di parta. Ma così? Dico di sì e di no. Di sì, nel senso che fa bene che molti partano, ma fa bene che molti entrino. Che è il caso degli Stati Uniti, Silicon Valley dicevamo, il caso della zona di Boston, dell'MIT, tutta la costa est, e parliamo di due coste, quindi ci sono due indicazioni geografiche, certo, precise, certo. Ma parliamo anche dei paesi del nord Europa, Svezia, Finlandia. La Finlandia non ha una grande attrattiva, certo, geografica, certo, o culturale, non me ne vogliono i finlandesi. Purtroppo nel caso italiano però non c'è un ricambio, cioè la gente va perché vuole cercare altre opportunità, va perché è esasperata, però il flusso di coloro che entrano in Italia è un flusso limitato e scarso, cioè è un flusso che non viene per le opportunità intellettuali, ma viene essenzialmente, e qui ci sono dei dati, quasi per disperazione, a differenza degli Stati Uniti e della Scandinavia, dove la gente va a un modello, cioè il sogno americano è il modello di colui che non ha niente e attraverso il duro lavoro e spesso lo studio, attraverso anche le forme di filantropia, quindi i soldi, certo, le borse, certo, di studio, raggiunge l'apice della propria carriera. Si parlava di Obama in questi casi, ma ci sono decine di migliaia di Obama negli certo, Stati Uniti. Prendiamo Larry Ellis, è un immigrato fondamentalmente di origine italiana, nonostante il cognome inganni, e ce ne sono tanti, la stessa Pelosi. C'è anche un problema di modelli italiani. Quali sono i modelli italiani che all'estero ricevono? Cioè qual è? Spesso la televisione italiana, come diceva Popper in riferimento alla televisione, è cattiva maestra. Quindi chi arriva in Italia ha in genere un modello che non è quello del sogno americano, o definiamolo del sogno scandinavo. E poi c'è un problema di strutture, cioè... Ci torniamo tra poco, Pietro. Abbiamo un ospite tra l'altro dagli Stati Uniti che ci aiuterà a fare i ragionamenti su cui ci sta conducendo per mano Pietro Paganini. Leggo solo ancora un paio di messaggi. magari questi un po' più così a sensazione, fatemelo dire. Nel 77, scrive Pierre, nel 77 mi sono laureato in biologia immunologica, la voglia era quella di vincere un Nobel, unica offerta di lavoro, analisi del sangue. Fate voi, oppure un ascoltatore spiritoso che dice: io seguo la filosofia di Homer Simpson, naturalmente, no, che è un sogno nostro, americano, nostro maestro intellettuale. Il mio cervello è fuggito come molti altri, ma non mi sono mai preoccupato di cercarlo. Complimenti per i messaggi. 349-238-6666. Stiamo parlando di fuga di cervello, ma voi avete molto ampliato il tema. Prima di tutto posso attestare, caro Pietro, che qui un maestro del pensiero dei nostri ascoltatori è Homer Simpson. Ma che andiamo a cercare, Machiavelli o altro? Un grande maestro. Sblindo da Prato scrive: come dice Homer, tentare è il primo passo verso il fallimento. Oppure Ivano da Modena precisa, sarà come dite, ma la classe politica italiana non somiglia ai cittadini, imprenditori compresi, che la votano? Hai voluto la democrazia. Poi ancora, alcuni ci spiegano perché i cervelli italiani vadano all'estero, perché la Finlandia ha attrattive paesaggistiche, scrive Mauro. Perché le donne sono belle, scrive Stefano da Udine, ma in sostanza noi all'estero invece possiamo andarci sul serio, perché abbiamo in collegamento Matteo D'Aste da San Francisco. Complimenti, lì sono le 7.45, già in ufficio, speriamo, con il telefono in mano. 33 anni, da 12 anni vive negli Stati Uniti, ha famiglia negli Stati Uniti, è un avvocato, uno dei 6 soci di uno studio legale specializzato in diritto societario, e ha fondato una società che si chiama Baia US, una sorta di camera di commercio italiana a Los Angeles. Buon mattino a te, Matteo. Grazie, buon pomeriggio a tutti voi. Grazie. Pietro, introduci il nostro ospite con questo scenario californiano che mi sembra. Matteo, particolarmente... adesso devo fare una marchettina a Matteo. No? Matteo non ha bisogno di introduzioni, ha lanciato quella che tu dicevi, che in realtà è un'associazione, certo, che mette in relazione gli imprenditori della Silicon Valley, soprattutto la parte che riguarda il venture capital, business angels, con gli imprenditori in Italia, con il tentativo anche di creare una cultura imprenditoriale italiana simile a quella della Silicon Valley, non emulandola, ma naturalmente adattando in Italia alcune di quelle che sono le logiche imprenditoriali. Pensiamo a quella del networking, cioè dell'incontro, del fare business, che esiste forte in California. Ecco Matteo, ma quali sono gli sviluppi di questa iniziativa? Come stanno andando le cose? Raccontaci. Ma le cose stanno andando molto bene. L'iniziativa è nata 3 anni fa e al momento abbiamo 400 membri registrati sia in Italia che in California, e sostanzialmente l'iniziativa ha creato un network orizzontale che mette in collegamento imprenditori, professionisti, ricercatori, sia da parte italiana che da parte americana, e gli dà una piattaforma per poter dialogare in tempo reale. Senti, ti giro una osservazione che è appena arrivata via SMS da uno dei nostri ascoltatori, così ci dai anche un parere sulla base dell'esperienza personale, perché poi c'è anche un filone, come dire, antivittimismo, no? Attorno a questo tema della fuga dei cervelli. Ci scrive un ascoltatore: nell'era della globalizzazione, ma è davvero così importante dove nel mondo, ad esempio, vengano effettuate ricerche o raggiunte alcuni risultati? Non siamo tutti cittadini nel mondo. Ecco, tu sulla tua esperienza personale cosa rispondi a una osservazione di questo genere? Il lettore solleva un punto validissimo. Infatti, secondo me la questione della fuga dei cervelli è un problema solo se lo guardiamo da un punto di vista strettamente geografico. Allora sì che è innegabile che assistiamo a un flusso migratorio dall'Italia verso mete estere da parte di ricercatori e talento. Mentre invece però nel momento attuale, grazie anche all'internet, a questi nuovi strumenti di comunicazione orizzontale, più di fuga dei cervelli, secondo me la sfida è di parlare di rete dei cervelli, e questo è possibile appunto visto che ormai l'internet ha obliterato le distanze geografiche tra i cervelli. Sì, dice benissimo Matteo, è assolutamente quello che poi è un po' anche lo scopo di Baia, è creare un network oggi tra Italia e Silicon Valley e Stati Uniti, proprio orizzontale, tra talenti, ma non solo talenti. Il talento non è nessuno di particolare, ognuno di noi ha un talento, è un network tra persone che hanno voglia di fare, che hanno voglia di fare nel mondo della ricerca, ma che hanno voglia di fare soprattutto nel mondo delle imprese. Io credo che sia una grande opportunità, visto che in Italia si parla del famoso popolo della partita IVA. No, ma mi fa anche abbastanza come dire, effetto, no? L'avvocato in fondo per gli italiani è una figura nazionale, non so come dire. Qui stiamo parlando ad esempio di laureati in legge italiani che prendono una strada diversa, vero Matteo? Ma io, la mia esperienza è... Per noi l'avvocato in un certo senso è una figura quasi di famiglia. È un avvocato dinamico, Matteo. No. Negli Stati Uniti è una figura un po' diversa. Certo, certo. Nella mia esperienza... Io sono a contatto, molto stretto contatto con imprenditori, per cui anche il tipo di pratica che ho è più relativa a aspetti imprenditoriali. E anche ciò è dettato sia da fattori culturali, ma anche proprio da come funziona l'ecosistema imprenditoriale qui, specialmente a San Francisco e nella Silicon Valley, dove praticamente, grazie appunto alla rete che si è stabilita tra imprenditori, professionisti, tutti siamo costretti o quantomeno dobbiamo per forza calarci un pochino nella realtà del mondo imprenditoriale. Quindi c'è molta collaborazione anche a livello professionale tra i diversi professionisti imprenditori. Matteo, scusami, visto che siamo anche in chiusura, adesso conduco io la trasmissione, no? Una domanda velocissima col tuo pragmatismo ormai consolidato americano. Con due parole, qual è la differenza a livello contestuale imprenditoriale tra Silicon Valley e Italia? Allora, Silicon Valley è molto pragmatica. In Italia, secondo me, siamo ancora abbastanza idealisti a livello imprenditoriale. Va bene, ci sarebbe una risposta sintetica. È una domanda cattiva, scusami. È estremamente chiara. Ti vogliamo ringraziare, e visto che lì sono, che è l'ora del caffè, buon lavoro per la ciao, tua giornata a San Francisco. Ciao. Un avvocato italiano a San Francisco e la possibilità di traslocare in questo caso una professionalità, poi appunto ci sono i talenti, poi ci sono le speranze in certi casi perdute, poi ci sono le imprese, poi ci sono i cervelli, ma forse ecco l'invito può essere anche quello di sdrammatizzare, di analizzare, di non imboccare soltanto immediatamente, no, la strada della collocazione d'Italia alla fine di una catena, può darsi ci sono altre strade. Grazie a Pietro Paganini. Vi ricordo questo incontro, si chiama Ignorati in Italia, geniali all'estero. Va in scena domani 17:30 all'Aula Magna Regina, John Cabot University, via della Lungara 233, Roma. Grazie Pietro. Grazie a voi. Jefferson Ming, io sono Stefano Pistolini, redazione Milano Enrico, in regia a Roma, Alessandro Chiappini, a Milano Filippo Aureggi, la mail è jeffersonming@radio24.it, andiamo in replica stasera alle 9, in diretta alle 4, domani qui su Radio 24. 生涯性，沉默的人最聪明，不做无聊的回应。